Ad alta voce, Ferdinando Bruni legge L'onda dell'incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini. Vicino all'imboccatura del Mandracchio, nel grande specchio d'acqua sotto la lanterna, c'era sempre, ormeggiato a una boa, qualche grosso piroscafo da carico. Talvolta ce n'erano parecchi e stavano l'uno accanto all'altro, alta fuor d'acqua la linea di immersione che divideva le enormi murate in due colori. Inerti e sbandati, quei piroscafi, senza essere propriamente in disarmo, venivano lasciati lì talvolta settimane intere, sinché a bordo si compiva qualche restauro. Certi giorni d'autunno o d'inverno, tutto il porto risuonava dal mattino al tramonto di due battiti, alti, profondi. Si vedeva allora, contro una di quelle murate, una passerella retta in alto da corde e lì sopra due uomini che battevano sulla lamiera ininterrottamente, con due martelli che alzavano due diversi suoni. Tan-ta, tan-ta. Quei suoni, assieme al palpito di motore di qualche motobarca, erano l'unico segno di vita del Mandracchio e ci si abituava talmente ad essi da non sentirli quasi. Mancava invece qualcosa. Ci si trovava subito a disagio se all'improvviso non li si udiva più. Ciò avveniva di solito in giornate ferme e umide, di caligo, monotone come quel tan-ta. Ed ecco, dopo tanti anni, Ario ricorda quelle giornate. Gli par di rivedere piccoli sulla passerella i due uomini che battono e battono e di udir risuonare il mandracchio dal mattino sino al tramonto di quei due colpi alti, profondi. Di tutta una parte della sua infanzia, la più lontana, gli sembra di non ricordare altro che questo. Deve fare uno sforzo per vedere affiorare da quella nebbia, dal caligo di quelle giornate, qualcos'altro. Pure, a poco, i ricordi lo investono. In quel tempo, ora se lo rammenta, egli si trovava per lo più con Lidia. Aveva stretto amicizia con lei. Berto giocava invece coi ragazzi degli altri pontoni, sfrenatamente, e si divertiva talvolta a fargli dispetti. In casa, e Ario in quell'epoca, al contrario dei suoi coetanei, non s'allontanava quasi mai dalla propria canottiera, sua madre s'era fatta ancora più chiusa. Col suo corpo alto e forte, con le sue spalle ossute, con le sue mani grandi e scarne, girava taciturna dall'una all'altra parte del pontone, dall'una imbarcazione all'altra, e verificava gli ormeggi e i gavitelli. Sempre come assorta. Non sostava mai. Se si imbattevano, egli la vedeva proseguire, quasi senza guardarlo. E vestiva già allora nel modo in cui Ario s'era poi abituato a vederla sempre. Coi calzoni, come un marinaio. Altrimenti, soleva dire, non avrebbe potuto sbrigare il proprio lavoro. Quel modo di vestire non stupiva Ario. Egli si ricordò a lungo, invece, dell'impressione strana, quasi sfacciata, che aveva provato un giorno d'estate, allorché aveva veduto per la prima volta sua madre indossare una blusetta in cui le tremolavano i seni grossi e una gonnella lieve da cui le uscivano con prepotenza le gambe dai polpacci forti. Lo aveva colto allora un'inquietudine, anzi, un disagio che gli faceva volgere lo sguardo per non vederla e avrebbe voluto che tornasse a indossare subito i suoi vestiti da marinaio. Gli pareva di doversi vergognare che altri potessero vedere sua madre così, quasi scoperta, e sarebbe certo arrossito se in quel momento fosse comparso il padre di Lidia. Sperò sino all'ultimo che ella non uscisse. Invece la vide andarsene e gli parve, mentre si voltava per dirgli che mangiasse all'ora di cena quello che gli aveva lasciato in cucina, che avesse la bocca diversa dal solito, d'un rosso sfrontato, in contrasto con l'espressione severa, quasi cupa. sentì, guardandola, quell'inquietudine rinnovarsi sin quasi all'angoscia. Avrebbe voluto trattenerla. Invece tacque. E più tardi Lidia, che veniva in cerca di lui con un cono gelato, lo trovò solo e zitto sulla zattera d'approdo. Quella notte, sebbene si fosse tenuto desto a lungo e si svegliasse poi a ogni scricchiolio del pontone, non la udì rientrare. L'indomani Berto gli disse che era stata con gli uomini all'osteria. Ario conosceva le osterie che vedeva durante le sue corse per le rive, ma gli erano sempre dispiaciute perché di giorno gli parevano buie. D'estate, le sere di festa, quegli antri rigurgitavano di uomini che si udivano tumultuare e cantare fino a tardi. All'osteria, gli aveva detto tempo addietro Berto, le donne, ma poche, ci andavano, facevano baldoria come i maschi e si lasciavano abbracciare. Per questo, aveva soggiunto, e non soltanto perché sta diventando ubriacone, la mamma grida quando papà ci va. Altre sere egli s'addormentò solo, sempre più spesso, sinché anche quella divenne per lui un'abitudine, specialmente la domenica. Restava a lungo con gli occhi aperti nel buio, udiva l'acqua intorno al pontone e vedeva, oltre le piccole finestre, il chiarore freddo delle stelle. Talvolta, quieto, gli avveniva di pensare come un tempo all'America. Ricordava di averne udito discorrere Berto, infatuato, in mezzo al gruppo dei suoi amici. In quel momento si era sentito fiero per la prima volta all'idea di avere lui, unico fra quei ragazzi, il babbo in America. Mentre Berto continuava a raccontare, egli pensò a quel padre lontano che sin allora gli aveva fatto sgomento con un impeto di entusiasmo. Bruciava dal desiderio di far sapere in qualche modo a tutti che suo padre era in America. Ma non osò dire nulla. Solo nel buio egli pensava a queste cose e fantasticava. Cercava di immaginare l'America e gli apparivano come al cinema praterie e grattacieli. Cercava anche di raffigurarsi suo padre, ma non ci riusciva. Pure, a quell'ora, raccolto nella cuccetta, egli provava per quel padre lontano, mai veduto, qualcosa che a momenti giungeva sino alla commozione. E più sua madre tardava a rientrare, e più egli sentiva quella commozione crescere. Più tardi, egli sembrava che fosse trascorso un tempo enorme e che presto dovessero fischiare le prime sirene. Lo prendeva, pensando a sua madre che non rientrava ancora, un orgasmo che lo faceva mutare continuamente di positura sotto le coperte, impedendogli di prendere sonno. Egli desiderava, in quei momenti, con spasimo, che suo padre ritornasse. E bramava che ciò avvenisse presto, magari subito. Chissà, pensava, e il cuore gli affrettava i battiti, forse in questo istante è vicino, sta ritornando. E io solo l'ho sentito, l'ho indovinato. Il suo orgasmo cresceva e quel presentimento diventava certezza. Gli pareva che in quell'agitazione ci fosse quasi la prova del suo arrivo imminente, come se tra lui e il padre esistesse, specie in quelle ore notturne, un contatto insopprimibile, sovrumano. Una volta ritornato, bramava che costringesse la mamma, subito e senza che glielo suggerisse lui, a non stare più fuori di notte e a non andare all'osteria, che la facesse obbedire, magari la castigasse, sì, che la castigasse. Un giorno Berto, appena uscito di scuola, gli si piantò dinanzi e gli domandò: «Sai qual è il paese più grande del mondo? L'America!» Berto sollevò il sopracciglio e mostrò di guardare altrove. «E sai qual è?» si voltò di scatto verso di lui, «la più grande città dell'America?» «San Francisco!» gli uscì di un fiato. «No, stupido!» sghignazzò Berto, voltandogli le spalle e allontanandosi. La più grande città degli Stati Uniti e del mondo è Nuova York. Domandalo a mio zio e anche al maestro. Da allora in poi cominciò a pensare, in quelle ore notturne, a Nuova York, che era corso anche a vedere in un cinema della riva. Gli rincresceva adesso che suo padre fosse a San Francisco ed era contento di non averlo mai detto a nessuno. Trascorrevano le settimane e i mesi, e la sua vita sul pontone, dopo le ore di scuola, era sempre uguale. I pomeriggi di festa, e talvolta anche le altre sere, sua madre spariva. La rivedeva al mattino seguente, e subito le sue inquietudini si dissipavano. Seria e taciturna come il solito, quasi assorta, andava e veniva per il pontone dandosi continuamente da fare. Indossava il suo costume consunto da marinaio, da mozzo, e a Dario piaceva vederla muoversi così, fra le barche, franca, risoluta. Provava, osservandola, un senso di tranquillità e di sicurezza. Ma c'era sempre in lei, in quella sua stessa aria risoluta e inesausta, ed egli più che notarlo, lo sentiva, qualcosa di incalzante e di oscuro. Imparò a temere, di lì a poco, i giorni in cui sua madre era più attiva e insieme più seria che mai, quasi cupa. Gli passava accanto allora, rapida, come se non lo vedesse o evitasse di guardarlo, con gli occhi fissi davanti a sé. Egli sapeva, da qualche tempo, cosa l'attendesse le notti che seguivano quei giorni. Sua madre, anziché restare fuori sino al mattino, a una certa ora rientrava. Ed egli udiva, nel buio e nell'incerto chiarore, assieme alla voce di lei, un'altra voce, d'uomo, che non era sempre la stessa. La prima sera, udendo un rumore di passi fuori sul pontone, il cuore gli era balzato in gola. «Ritorna! Comincia a rientrare presto!» Ma poi, prima ancora dello stridore dell'uscio, si alzò quell'altra voce, roca. Ed egli si ricordò di colpo, come una trafittura in petto, di quel giorno lontano. Quanto tempo era trascorso? Che tutti, nella cucina di Berto, lo avevano guardato in silenzio, sgomenti, e riudì le proprie parole, le ultime. Non lo so, era uno che non ho mai visto. Era, anche questa volta, uno che non aveva mai veduto. Lo scorse un empito mostruoso di angoscia oltre le ombre della rastrelliera, alla luce mobile della lanterna che filtrò un istante per gli scuretti socchiusi. Altre notti, invece, quando era ormai più grande e girava di giorno col caicio per il mandracchio e per il porto tra veglieri e vapori, gli parve di riconoscere la voce di qualche marinaio che aveva già intravisto, a bordo per lo più di qualche nave straniera. Una notte udì una voce più forte del solito, quasi insolente, dall'accento volgarmente straniero. Dovette dominarsi col cuore in tumulto, volgendosi verso la parete e serrando i denti, per non venire sopraffatto da un impeto di ribellione. Già sentiva e vedeva quello che avrebbe fatto, che stava per fare. «Fuori! Fuori di qui! Via per sempre!» gridava balzando dal letto. Vedeva sua madre guardarlo esterrefatta, muta, e l'uomo andarsene senza voltarsi. «Via, via!» avrebbe gridato ancora col dito teso. E infine lo sapeva, si sarebbe accasciato in singhiozzi. Sentì invece sua madre sussurrare: «Taci! Ho qui un figlio, un bambino. Non svegliarlo!» «Oh, oh!» ridacchiò l'uomo senza abbassare la voce e dovette batterle una manata da qualche parte perché risuonò uno schiocco. «E chi te l'ha fatto questo regalo?» «Mio marito, ma taci!» Tremando tutto, con le ginocchia puntate contro la parete, Ario sentiva le lacrime scorrergli dagli occhi ed entrargli salate in bocca. lo scuoteva ancora a tratti quell'impeto di ribellione, specie quando udiva la voce di sua madre, una voce dolce, mansueta e calda, carezzevole, che egli non le aveva mai conosciuta. Non sapeva e non avrebbe mai immaginato che sua madre potesse parlare anche così. Gli pareva un torto, un tradimento fatto a lui, che l'aveva udita sempre sbrigativa e brusca, sentirla parlare a quel modo, docile a uno sconosciuto. Se tornasse mio padre, pensava, e si sforzava ciecamente di invocarlo, come se quel babbo, che in quel momento gli pareva di aver sempre conosciuto, potesse sentire il suo richiamo oltre lo spazio. Se torna, si prometteva, e ciò bastava a consolarlo e a fermargli le lacrime, non taccio, gli racconto subito tutto. E per qualche istante, sinché lo infiammavano questi propositi, si sentiva quasi vendicato. Un figlio? E quanti anni ha? Esclamava insolente quella voce. E infine, ah, peccato non essere un marinaio di quelli che so io. Ario aveva imparato a temere anche i giorni che seguivano quelle notti. Sua madre, l'indomani, ciò accadeva ogni volta, sarebbe stata del suo umore più nero e impetuosa, manesca. Trovandolo sui propri passi, non si limitava a gridargli «Scemo, non venirmi tra i piedi!» ma lo raggiungeva di colpo con una sberla. Dopo quelle notti, egli ormai lo sapeva, sua madre diventava una bestia. Nel buio, egli nutriva in cuore, con decisione, con una fermezza disperata che gli sembrava eroica, una promessa. «Di ciò che vedo e sento, di tutto ciò che so, non devo dire nulla a nessuno». Era il proposito che aveva cominciato a formarsi in lui sin dal giorno lontano in cui tutti, nella cucina di Berto, avevano ascoltato le sue parole, quasi sgomenti. «Non devo rivelare niente, mai più». E si inorgogliva per la capacità che sentiva in sé di mantenere quel segreto. In un unico caso lo avrebbe rivelato a suo padre, se tornava. Gli pareva di conservare quel segreto per lui, di fare quello sforzo soltanto per lui, per suo padre. Questa consapevolezza lo esaltava e lo consolava, infondendogli quasi un gaudio per cui gli era più facile dominarsi e tacere. E questa era la terza puntata dell'Onda dell'Incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini, letta da Ferdinando Bruni per Ad Alta Voce, che è a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, per la regia di Luigi Iavarone, come sempre da riascoltare su raiplayradio.it. Prima di proclamare il libro del mese di maggio e prima di parlare del libro del giorno di oggi, l'ultimo brano dall'album musicale del nostro pomeriggio era Echoes di John Abercrombie e del suo gruppo, e questo è il brano che dà il titolo all'album. Thank you.